una cosa 100 volte più di ieri, alla luce del giorno. Cioè tutto il paese, allora lei pensa che lei entra nelle case dal primo piano, sul primo piano delle case, dalla strada, ci entra nei terrazzi, c'è tanto di quel materiale che è la metà bassa, siamo senza fognature, senza acqua, senza viveri, senza comunicazioni, non c'è più nulla. Siamo isolati, sì, ma non c'è possibilità, qua se non arriva l'esercito, se non civile non ce la facciamo. Evacuiamo gli alberghi in centro storico, li portiamo giù in comune. Abbiamo ancora un nostro volontario da ieri che non lo troviamo.